95.0 Açık Radyo'dasınız. Itabella'dasınız. Itabella'da bu hafta 50'lerden İtalyan şarkıları var. Hiç vakit kaybetmeden hemen Rocca Granata ile başlayalım. Rocca Granata 1938 Ağustos'unda Kalabria'da dünyaya geliyor ve ailesi 10 yaşındayken Belçika'ya göç ediyor. Bu sebeple de Belçikalı İtalyan sanatçı diye biliniyor. Biz şimdi onun en ünlü eseriyle defalarca coverlanan meşhur Marina ile 50'lere başlıyoruz. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor scocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh no, no, no, no, no. Rocca Granata Marina ile Açık Radyo'daydı. Granata'dan Modugno'ya geçiyoruz. Hem bir şarkıcı, hem söz yazarı, hem oyuncu, hem gitarist. Yani hem çalan, hem söyleyen, hem yazan, hem besteleyen diye özetleyebileceğimiz ilk İtalyan kantatore olarak kabul edilir Domenico Modugno. Biz şimdi ondan bir balat dinleyeceğiz. 1955 yılından bir balat bu. Roma'daki Eden Otel'in penceresinden atlayarak intihar eden Raimondo Lonza di Trabia'nın ölümünden ilham alınan bir parça bu. Kısaca da işte gece yarısı ıssız sokaklarda yürüyen ve çok zarif bir frak giyen bir adamdan bahsediyor. Vecchio frak. Arkasından da 1957 yılından Benimle Kal diyen Napoli diyalektinde bir parça olan Resta con me, Domenico Modugno yorumuyla şimdi Açık Radyo'da. Nella notte, mentre tutti dormono, solo un uomo cammina per le strade. È un uomo in frac. Giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti,

banale. Fammi impazzire, fammi dannare, ma dimmi sì, moro per te, vivo per te. Resta con me, con me. Resta con me ve Vecchio Frac dinledik Domenica Modugno'dan. Şimdi 1926 Roma doğumlu Claudio Villa bizimle olacak. Kariyerine 3000'den fazla şarkı kaydı, milyonlarca satan plaklar ve 25 müzikaldeki harikulade oyunculuğunu sığdıran bir müzisyen Claudio Villa. 1987 yılında hayata gözlerini yumuyor ve mezar taşına şöyle yazıyorlar. Vita sei bella, morte fai schifo. Hayat sen güzelsin, ölüm sensa iğrençsin. Şimdi 1954 yılından Luna Rossa, arkasından da 1956 yılından bir Napolitan olan Picciarella, Claudio Villa yorumuyla Açık Radyo'da. Vaga distratta, mente abbandonata. Gli occhi e sotto cappiella nascondute. Ma non da sa che va vera izzata. Vaga ci scanne stelle da sua asciuta. E a luna rossa me parle te, io le domani si aspetta a me e mi risponde se io può sapere che non c'è sta nessuna e chi amma non mi vede vedere ma tutta gente che parla te risponde tardi che può sapere che non c'è sta nessuna. Luna rossa, chi me sarà sincera? Luna rossa se ne chiuda la sera senza me vedere. E chi amma non mi vede vedere, ma tutta gente che parla te risponde tardi che può sapere. Just a honey shore. Sarà sincera, luna rossa se ne chiuda, la sera sempre me vede, e chi amma non mi vede vede, ma tutta gente che parla te, ne accorto che può sapere, ma non c'è sta nessuna luna rossa, ma non c'è sta L'amore, sì signore, è una sciocchezza, è debolezza e non ci cascherò. Chi si innamora perde l'allegrezza e con certezza mai mi sposerò. Ma una mattina a Napoli ingoppa una fenestella che zucchero e cannella steva là. Che c'è steva ingoppa quella fenestella? Teneva una buchella, piccerella, piccerella, teneva una silla, piccerilla, piccerilla, teneva una faccella che pareva un pignè, ed era tutta bella, bella, bella, bella, bella, due occhi che parlavano, ridevano, cantavano, che mentre mi guardavano, lucevano, bruciavano, e sappi c'è sto cuore, sto fuoco non può passare, e manca quei pompieri che sto cuore c'è sto darrà. Ah, ah, ah, oh, vi che m'ha fatto fa, ah, ah, ah, oh, vi che m'ha fatto fa, una buchella, piccerella, una silla, piccerella, una silla, una buchella, piccerella, piccerella. E la buchella subito si arrese, senza sorpresa presto mi baciò. Uno scusalizio degno e una marchesa, da zi Teresa, poi si festeggiò. E che spaghetti a vongole, che polla cacciatora, la dolce mia signora manducò. Poverello, stava a dieta, signora vostra. Teneva una buchella, piccerella, piccerella, tenevano una silla, piccerella, piccerella, teneva una faccella che pareva un pignè, ed era tutta bella, bella, bella, bella, bella, due occhi che parlavano, ridevano, cantavano, che mentre mi guardavano, lucevano, bruciavano, e sappi c'è sto cuore, sto fuoco non può passare, e manca che pompiere, chi sto cuore se sto darrà. Ah, ah, ah, ah, vi che m'ha fatto fa, ah, ah, ah, oh, vi che m'ha fatto fa, una buchella, piccerella, una silla, piccerella, una silla, una buchella, piccerella, piccerella. Modinta casarella che appartiene tutta a me, c'è sta una sposa bella, bella, bella, bella, bella. Ho tre gemelli piccoli che parano tre angeli, sto terno è uscito a Napoli che ha fatto sti miracoli. La colpa fu del lampo che quel giorno mi illuminò, ma fino a quando campo io quel lampo benedirò. Ah, ah, ah, vi che m'ha fatto fa, ah, ah, ah. Vi che m'ha fatto fa, una buchella, piccerella, una silla, piccerella, una silla, una buchella, piccerella, piccerella. Luna Rossa ve Piccerella Açık Radyo'daydı. Şimdi Nila Pizzi ile devam ediyoruz. Nila Pizzi hatırlarsanız 1951 yılında ilk Sanremo'yu kazanan hanımefendiydi. Bir diğer çok meşhur parça olan Arrivederci Roma yorumuyla bizimle olacak. Bu parçanın sözlerini Pietro Garinei ve Sandro Giovanni birlikte yazıyorlar ve Renato Rassel tarafından besteleniyor ve ilk kez 1954 yılında kaydediliyor. Çok meşhur bir parça. Dean Martin, Perry Como, Landa Fiorini, Johnny Dorelli gibi pek çok İtalyan ve İtalyan asıllı Amerikalı tarafından da yorumlanıyor. Arrivederci Roma, arkasından da Papa Veria Papare, Nila Pizzi yorumuyla şimdi. Itabella da.

se c'è qualcuno che la pensa come me. Invita a casa mia, può venire tutte l'ore che spaghetti e buon umore troverà. Io l'ho cercata in ogni strada, in ogni casa, ogni cortile, in tutti i caffè, ovunque c'è del tè. Ho cercato a Shanghai, io l'ho cercata in tribunale e dallo stadio nazionale. Arbitro, sopra il filo bus, persino sopra il tram, ho cercato Shanghai lì. È una catena, eccola, malapena, richiusi in prigione. Quegli occhi neri sono così sinceri, pieni di passione. Basta! Io l'ho cercata sul Danube, io blu, io l'ho cercata a Firenze, stanotte si osteggiare il mio ricciolino. A lume di candela ho cercato Shanghai, l'ho cercata a Zanzibar. L'ho cercata nel Brasile, io l'ho cercata nel Brasile, Brasile, io l'ho cercata nel Brasile. Pronto? Pronto, dice Shanghelin, per favore. Ma naturalmente Shanghelin sono io. Oh, scusi, sa, credevo che fosse Shanghelin. Carino, spiritoso. Io l'ho cercata in ogni strada, in ogni casa, ogni cor. Quartetto Cetro'yu dinledik. Spaghetti'ye bon umore ve Shanghelin. Adeta bir kabare gibiydi. Şimdi sırada bir diğer büyük isim var. 1920 Napoli doğumlu İtalyan müzisyen Renato Carosone bizimle olacak. 20. yüzyılın ikinci yarısında İtalyan müziğinin belki de en önemli müzisyenlerinden biriydi. Ve Canzone Napoletana'nın ilk modern temsilcilerinden biri sayılıyor. Biz şimdi 1956'da Nicola, Nisa Salerno ki birlikte çok çalışıyorlar Carosone ile. Çok ortak şarkıları var. Bu şarkı da öyle. Birlikte yazdıkları swing ve cazı birleştiren, belki de en bilinen parçası olan Tu va fare l'americano. Arkasından da 1957 yılından Napoliten bir parça olan Pigliate una pastiglia. Şimdi Açık Radyo'da. Porte casuno con uno stemma arreta, una coppulella che vi si era alzata, passa scampagnando una pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tuo fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi tu senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per Camella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan. Tuo fa l'American, tuo fa l'American, tuo fa l'American, tuo fa l'American. Tu americano, americano, americano. Ma si nati in Italy, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok, napulitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American. Wish che sole il rock and roll, wish che sole il rock and roll. Wish che so del rock and roll, tuo fa l'American, tuo fa l'American. Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll, wish che so del rock and Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando. Io non tengo mai suono, non chiudo mai il bocca e non bevo caffè. Padre cocche, sienta a me, padre cocche, sienta a me. Una persiana che sbatte, lo lampione che luce. E in ubriaca che dice bussando alla porta, ma la c'è. Tre mesi non dormi più, una bucchella vorrei scordare, gente decida ma come già fa. Piglia della pastiglia, piglia della pastiglia, sienta a me. Poi mi fa dormire, poi mi fa scordare il mio dolce amore. Piglia della pastiglia, piglia della pastiglia, sienta a me. Poi mi fa sentire come un gran pascià e mi inebria il cuore. Tinte e vetrine tutte farmaciste, la vecchia cammo mi l'ha dato il posto. Alle palline glicer, fosfato e bromo televisionato, grammi 003. Piglia della pastiglia, sienta a me. Dindo scura una gatta, maste canne una sarda. Doce doce mi guarda se struscia miagola e fa. Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca. Sono ciucci carretta, caricata d'amore. Casa dire sto cuore che cerca la felicità. Tre mesi non dormi più, una bucchella vorrei scordare. Gente decida ma come già va. Dinde vetrine tutte farmaciste, la vecchia camomilla ha dato il posto. Alle palline glicer, fosfato, bromo televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, nacustata, fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003. Figlia della pastiglia, sienta a me. Tuva Fern Americano ve Piliyeten Pastilya ile Renato Carazone radyonuzdaydı. Şimdi Natalino Otto bizlerle olacak. 1912 doğumlu İtalyan şarkıcının İtalya'da swing'in yaratıcısı, yani İtalya'ya swing'i getiren kişi olarak lanse edilmiştir hep. 1935 yılında New York'a gidiyor. Orada bir süre kaldıktan sonra Cenova'ya kesin dönüş yapıyor. Ve bu dönüşüyle İtalya'ya ilk kez caz ve swing gelmiş oluyor. Özellikle faşizm döneminde her ne kadar müzik ithalatı da yasak olsa da Re del Ritmo, ritmin kralı olarak ün salıyor. Ve faşizmden sonraki dönemde de Demokratik İtalya'da da devam ediyor kariyerine. İlk San Remo'lara katılıyor tabii ki. Şimdi bu ritmin kralından önce Sole Giallo, arkasından da La Più Bella del Mondo, şimdi Açık Radyo'da. Sole Giallo, Sole Giallo, grano come cresce come saglie oili e come coce chisto sole e luglio oila o russe stippa pagna gamma baglia oili che desideri e vase game piglia oila o il sole giallo giallo giallo vorria sapere ad ostacchilla me dicette bocca rossa non te la se me la sai me dicette torna presso bocca rossa e non tornai o il sole giallo giallo giallo si veda chi la riguardancello ca como grano salie salie salie e tanto tanto bene calle voglio perciò ricordancella che lo sole giallo il sole giallo, giallo, giallo, lo, lo. Vorria sapere ad ostacchilla me dicette bocca rossa non te lasso e me la sai me dicette torna presso bocca rossa e non tornai o il sole giallo, giallo, giallo si veda chi la riguardancello ca como grano saglie saglie saglie e tanto tanto bene calle voglio perciò ricordancella chi lo il sole giallo o sole giallo o sole giallo Tu sei per me la più bella del mondo e un amore profondo mi lega a te. Tu sei per me una cara bambina primavera divina per il mio cuore. Splende il tuo sorriso sul dolce tuo bel viso e gli occhi tuoi sinceri mi parlano d'amor. Tu sei per me la più bella del mondo e un amore profondo mi lega a te. Tu sei per me.